Grazie a tutti. La notte è calata. La notte è calata e ci ritroviamo un anno dopo. Io e Vuminguno qua a Gonnesa, in questo splendido luogo ricco di meraviglia e ricco di mistero, effettivamente. Per chi non conosce il collettivo Vuming, il collettivo Vuming è nato nel 2000, dopo che il Luther Blissett Project nel 99 fece Seppuku, autore di Q, libro che ha avuto moltissimo successo in Italia e all'estero. Contestualmente alla nascita del collettivo Vuming, che dal 2015 è formato da Vuming 1, Vuming 2 e Vuming 4, nasce la Vuming Foundation. La Vuming Foundation è una costellazione di laboratori di ricerca politici, culturali, progetti artistici, percorsi che sono stati avviati e tenuti assieme da un blog che si chiama JAP, che potete trovare alla pagina www.vumingfoundation.com. Il collettivo Vuming, appunto, ha pubblicato libri di grande successo come 54, Manituana, Altai, l'Armata dei Sonnambuli, Prolet Cult, e ciascuno dei membri hanno poi tutta una serie di lavori solisti, tra cui appunto quello che io ho presentato l'anno scorso, Q di complotto, proprio qui a Gonnesa. Questo è un libro particolare, un libro che ha avuto una genesi molto lontana e quindi tutta una serie di costruzione, no? Lunghissima. Ecco, io chiedo a Vuming 1 questo, rispetto ad altri romanzi che hanno avuto in qualche modo un processo di qualche anno, questo è estremamente lungo. Ora ti chiedo intanto quando è iniziato questo processo di avvicinamento alla pubblicazione, che come diceva prima Federica sarà l'11 ottobre, il libro è già stato venduto, i diritti in Grecia e in Germania. E oggi abbiamo appunto il privilegio di avere questa anteprima qui a Gonnesa. Quindi inizierei proprio da questo. Quando nasce l'idea di UFO 78 e perché è stata così lunga poi tutta la costruzione del romanzo? Sì, intanto buonasera a tutte e a tutti. Allora, dal momento in cui noi abbiamo l'idea per un romanzo in cui concepiamo il primo nocciolo, il primo nucleo poetico, narrativo, le prime immagini intorno a cui poi vanno a gravitare tutte le altre, al momento in cui noi cominciamo a scrivere passa usualmente un periodo piuttosto lungo, anche perché in realtà noi lavoriamo simultaneamente su più progetti, su più storie, mentre una la lasciamo a lievitare nei cassoni, l'altra la sviluppiamo. Poi sono tutte collegate tra loro, dall'idea per un romanzo ne nasce un altro, elementi di un romanzo o personaggi di un romanzo vengono echeggiati in un altro, eccetera. Questo però è vero che è una gestazione particolarmente lunga, perché la genesi di UFO 78 è lunga 16 anni. La prima volta nel 2006 ci viene quest'idea e non viene solamente a noi, ma viene a noi e a un collega scrittore, Giuseppe Genna, scrittore milanese, visionario, psichedelico, amico di lungo corso. Nel 2006 insieme noi a distanza facciamo un gioco, un'improvvisazione narrativa per vedere cosa ne viene fuori, che all'epoca chiamiamo Mater Materia. È una improvvisazione narrativa sugli anni 70, ma sugli anni 70 non da cliché, gli anni di piombo, eccetera, ma sugli anni 70 misteriosi che noi ricordiamo perché eravamo bambini. Gli anni 70 sono anche un decennio ossessionato dal paranormale, dai misteri, si parla molto del triangolo delle Bermude, si parla dei poteri della mente. In televisione c'era Uri Geller che con la forza del solo pensiero piegava cucchiai. Io già all'epoca, già da bambino, dicevo: ma scusa, ma quei poteri incredibili li usa per piegare dei cucchiai? Ma chi se ne frega dei cucchiai? Non li può usare per fare qualcosa di più utile? Ma era sempre in televisione che guardava sti cucchiai che poi si piegavano. E soprattutto i dischi volanti. I dischi volanti. Gli anni 70 sono un decennio particolarmente in fissa con gli UFO, e il 1978 è l'anno più in fissa in assoluto. Noi cominciamo un'improvvisazione, e in particolare ci sovviene uno scrittore che quando eravamo ragazzini era famosissimo. Vinceva il premio Bancarella, vendeva carriolate di libri. Peter Colosimo. Peter Colosimo scriveva libri sulla quella che poi è stata chiamata la teoria degli antichi astronauti, su cui poi hanno fatto la fortuna tanti personaggi, influencer, biglino su YouTube. Colosimo è stato uno dei primi a cercare nell'archeologia e negli testi antichi e nell'arte rupestre possibili testimonianze di contatti con extraterrestri avvenuti in epoche ancestrali e che avrebbero influenzato poi la nostra civiltà. Vendevano centinaia di migliaia di copie i libri di Colosimo. All'epoca avevano dei titoli per noi bambini fantastici, suggestivi: Non è terrestre, Terra senza tempo, Fratelli dell'infinito, Odissea stellare, Astronavi sulla preistoria, Polvere d'inferno. Avevano dei titoli fantastici ed erano in tutte le case, nelle case nostre, dei genitori, dei nostri amici. Ci figuriamo una cosa: come sarebbe un romanzo con uno scrittore ispirato a Peter Colosimo, però ambientato durante il sequestro Moro. E lì partiamo un'improvvisazione narrativa, vengono fuori già alcuni dei nuclei tematici di questo romanzo, poi non se ne fa nulla. Però quelle suggestioni continuano a lavorare, tant'è che nel 2007 Genna pubblica un romanzo, Medium, in cui compare Peter Colosimo come personaggio. Noi scriviamo diverse cose su Peter Colosimo, sugli UFO, e noi abbiamo addirittura una versione musicale, il Woomin Contingent, siamo anche una punk band. Nel 2014 è uscito il primo album, Bioscope, dove c'era un pezzo che si intitolava come un libro di Peter Colosimo, Italia Mistero Cosmico, ed era una canzone su Peter Colosimo. E insomma, queste cose continuano a lavorare. Poi a un certo punto, finita l'armata dei sonnambuli, che già ha parlato di mistero, di visionario, di paranormale, di fantastico, decidiamo di riprendere in mano le vecchie suggestioni di Mater Materia e cominciamo a lavorare a questo romanzo. Solo che da questo romanzo ne nasce un altro. C'era già capitato. Noi, mentre scrivevamo 54, ci siamo imbattuti nella storia di Vitaliano Ravagli e abbiamo detto: no, questa non la riusciamo a infilare in questo romanzo qua, deve essere un romanzo a parte. Quindi abbiamo sospeso per qualche tempo la scrittura di 54 e abbiamo scritto Asce di guerra. E qui è successa la stessa cosa. Ci siamo imbattuti in Aleksandr Bogdanov, dirigente bolscevico, scrittore di fantascienza, avversario filosofico di Lenin. Lenin gli scaglia contro il suo libro più ambizioso, Materialismo ed Empirio Criticismo, che doveva essere una demolizione delle teorie politiche e filosofiche di Bogdanov. Ma Bogdanov soprattutto è un pioniere della fantascienza, ha scritto un romanzo meraviglioso, Stella Rossa, in cui immagina che su Marte ci sia il socialismo. E quindi decidiamo di scrivere un romanzo su di lui, Proletkult, che esce poi nel 2018. Scritto Proletkult, finalmente possiamo tornare al Magnum Opus, che doveva essere UFO 78, che ancora non si chiamava così. Abbiamo cominciato a scriverlo nel 2019, poi si è abbattuta su tutti noi come un maglio, schiacciando tutto, l'emergenza pandemica. Durante l'emergenza pandemica il libro è stato fortemente ispirato da quello che stavamo vivendo. L'angolatura con cui raccontavamo il 78, l'emergenza terrorismo, i 55 giorni di stato d'assedio del sequestro Moro, le leggi speciali antiterrorismo, i posti di blocco dappertutto, queste cose qua sono state molto influenzate dal clima dell'emergenza pandemica, sono diventate quasi un'allegoria. E quindi abbiamo continuato a scrivere. Poi è successo che l'anno scorso l'abbiamo finito. Abbiamo finito la prima stesura completa, l'abbiamo riletta tutta e abbiamo detto no. Non ci convince, ancora non è al punto in cui dovrebbe essere. Doveva uscire a Natale dell'anno scorso, l'Einaudi puntava tantissimo su questa uscita, ha detto no, abbiamo bisogno di una proroga di un anno. Einaudi, devo dire, sono stati molto, molto ricettivi, comprensivi, hanno detto beh, del resto se il romanzo ancora non c'è non lo possiamo pubblicare, quindi ci hanno dato una proroga di un anno, l'abbiamo terminata a maggio la stesura, però abbiamo continuato a lavorarci fino a fine agosto, quindi fino veramente a poco fa, fino all'ultimo minuto utile prima che andava in stampa, perché volevamo proprio che il libro fosse ben temperato, no? Come il famoso clavicembalo, e quindi l'abbiamo limato tantissimo, cesellato tantissimo, ci siamo stati sopra proprio fino all'ultimo, e non mi par vero che finalmente appunto tra pochi giorni esca, perché è una storia cominciata 16 anni fa. Allora, io inizierei intanto anche un po' a parlare del libro attraverso la copertina, che è una copertina che è stata disegnata da Andrea Alberti, che vi segue da tantissimo tempo, fino da Luther Blissett, no? Sì. Quindi vediamo che ci sono vari elementi, okay? Abbiamo la Renault 4 rossa, che in verità poi non era rossa, era amaranto. Poi abbiamo un monte, dopo parleremo anche di quello, e quindi io inizierei proprio da quello, dal titolo, no? Intanto perché il 1978 e gli UFO, mi spiego, allora, noi sappiamo bene che il 78 è un anno che è un grumo veramente di eventi capitali per la storia italiana, ecco, quanti ecco, di questi eventi fondamentali, proprio, diventa proprio una cesura fondamentale della storia italiana, poi rientrano all'interno del testo. Quindi perché gli UFO e perché il 78? Intanto. Allora, il 78 è un anno cerniera, è un anno fondamentale, è l'anno delle ultime grandi riforme sociali seguite alle lotte del 68, dell'autunno caldo, dei movimenti degli anni 70, il femminismo, il movimento operaio. Nel 78 c'è la riforma che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, c'è la legge Basaglia che chiude i manicomi, c'è la legge che legalizza l'aborto. È un anno di grandi avanzamenti sociali, al tempo stesso è anche un anno in cui comincia qualcos'altro di segno completamente diverso, sotto l'ombrello dell'emergenza terrorismo, le leggi speciali, la legislazione d'emergenza, e in più è l'anno in cui viene coniato il concetto di riflusso, che appare per la prima volta su un numero di Panorama nell'autunno di quell'anno. Il riflusso, se dopo gli anni della grande politicizzazione dell'azione collettiva dei movimenti, invece un ritorno al privato, all'effimero, ai consumi personali, alla preoccupazione per lo stile di vita, ad argomenti leggeri, tra l'altro è una strategia perseguita proprio intenzionalmente da alcuni soggetti della comunicazione. In tutte le redazioni dei periodici e quotidiani del gruppo Rizzoli appare un vero e proprio manuale, un opuscolo che si chiama Scenario, opuscolo sono più di 100 pagine, che si chiama Scenario, dove vengono imposte delle linee guide, d'ora in poi dobbiamo occuparci di argomenti più leggeri, culturali, stile di vita. Mi pare che nel 78 il Corriere della Sera fece la prima pagina, dove non si parlava di politica, ma si parlava di costume, sì, società, sì, no? Venne pubblicata una lettera di un lettore cinquantenne in prima pagina, sì, cosa che fece scalpore, che diceva che aveva una storia con una donna molto più giovane, però al tempo stesso non aveva il coraggio di mollare la moglie e stava pensando di suicidarsi, e il direttore in persona gli rispondeva, cosa che fece scalpore perché non era mai accaduta in prima pagina sugli argomenti seri, la politica oppure fatti di cronaca. E poi invece si è scoperta che in realtà quella lettera era falsa, era stata scritta da un redattore del giornale. Quindi si inaugura anche una certa modalità, quella dell'uso del falso. Poi avremmo avuto solo pochi anni dopo i finti processi di Forum, no? Con i tipi che litigano tra di loro in un'aula di tribunale finta, e sono finti loro, non si chiamano nemmeno così, sono finti i casi che loro portano e tutto quanto. E da lì è stata poi tutta una discesa verso una presenza sempre maggiore del falso, ma anche conclamato. Il 78 è un anno ricordato anche per i tre papi, nel giro di un mese tre papi sul soglio di Pietro, perché c'è questa vicenda che rimane tuttora nebulosa di Papa Luciani, Papa Giovanni Paolo I, che è appena stato fatto beato che dura un mese e poi arriva Wojtyla che dice se sbaglio mi corrigerete, e l'anno dei mondiali in Argentina molti lo ricordano anche per questa cosa che all'epoca sollevava ancora qualche sopracciglio, il fatto che dei mondiali di calcio venissero usati per celebrare una dittatura in un paese non democratico. Poi abbiamo anche tre omicidi oltre a quello che conosciamo tutti, sì, che è quello di Moro. Abbiamo altri due omicidi politici di cui si è parlato adesso grazie a un film di Giulio Giordana, che è l'omicidio di Pippino Impastato, che è stato completamente oscurato. Di cui all'epoca non si accorge nessuno della morte di Pippino Impastato. E forse anche un altro omicidio di due giovani militanti, Fausto e Iaio, esatto. È legato a uno degli argomenti del nostro romanzo, che non abbiamo ancora detto. Il nostro è un romanzo anche sull'eroina. Il 78 è anche l'anno in cui i media mainstream, che all'epoca non venivano chiamati così, ma si accorgono della vera e propria epidemia di eroina che sta falcidiando una generazione. L'eroina è dappertutto, escono addirittura inchieste sul fatto che l'eroina entra anche nelle fabbriche, cioè i giovani della classe operaia che fanno uso di eroina muoiono di overdose nei gabinetti delle fabbriche. Però c'è soprattutto una cosa che a noi premeva. Il 78, oggi questa dimensione è dimenticata, ma all'epoca dominava proprio i discorsi, riempiva l'immaginario, saturava l'immaginario. Il 78 è l'anno degli UFO. In Italia ci sono oltre 2000 avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Se uno guarda i giornali dell'epoca sono pieni di notizie di avvistamenti di UFO. Anche in pieno sequestro Moro ci sono continuamente notizie di gente che ha visto UFO. Ci sono addirittura 70 incontri ravvicinati del terzo tipo, cioè di gente che dice di non aver visto solo gli UFO, ma di aver proprio visto gli alieni. È una vera e propria epidemia culturale e tutti vedono gli UFO. Questa cosa si intensifica nella seconda metà dell'anno. Gli anni 70, dicevo prima, sono particolarmente ossessionati dagli UFO, ma se uno guarda il grafico col numero di avvistamenti vedrà che fa 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e non ho il braccio abbastanza lungo, 79, 80, 81. Cioè è un picco inspiegabile su cui si sono interrogati sociologi, antropologi, psicologi sociali. C'è stato anche un convegno importante nazionale a Bologna 3 anni fa in occasione del quarantennale e ancora permane in gran parte inspiegato il perché proprio quell'anno lì ci sia stato questo. Qual è il rapporto tra gli UFO e tutto quello che abbiamo appena detto? Il sequestro Moro, le tensioni, le leggi antiterrorismo, l'eroina. Il nostro romanzo è su questo, sul rapporto tra gli UFO e tutti questi temi qua. Quindi 78, UFO, UFO 78. UFO 78, che poi fu anche l'anno di UFO Robot, no? Sì. Goldrake, no? Il 78. A maggio comincia Atlas UFO Robot. Atlas UFO Robot. Abbiamo allo zecchino d'oro, abbiamo UFO questi UFO. Sì, una bambina si chiama Cristina Radrizzani che canta una canzone. Io mi ricordo proprio chiaramente quando facevamo questi viaggi di notte con mio padre, mi ricordo mio padre, quando era molto piccolo, diceva guarda in alto se vedi qualche ufetto. Cioè me lo ricordo chiaramente questi fine anni 70 dove si parlava di UFO. Poi abbiamo chiaramente un film fondamentale che era aspettato da tutti gli ufologi del mondo che è Incontri ravvicinati al terzo tipo. Che esce a marzo. Che esce a marzo del 78. E abbiamo un revival di UFO proprio dopo la pandemia. Sì, no? Durante la pandemia e anche, ne guardavamo prima, ci sono alcuni flap, no? Si dice, proprio qui nel sud della Sardegna ci sono stati gli avvistamenti. In questo momento la Sardegna ha il record di avvistamenti di UFO a livello nazionale. È una tendenza che non solo in Sardegna e neanche solo in Italia o in Europa, in tutto l'Occidente, nel 2020, soprattutto durante i grandi confinamenti, certo, no? A me non piace la parola lockdown, in Francia lo chiamano confinement. Ecco, durante i grandi confinamenti, perché poi quest'uso dell'inglese certo. Molto spesso è pigro, no? Infatti ho detto anche flap. Flap non ha un esatto corrispettivo se non ondata, che però ondata, è un ondata po' diversa. Perché l'ondata è tutta quella del 78, i flap sono quelli che tipo nel giro di 2 giorni si vedono 100 UFO. Esatto. Ecco. Allora, durante la pandemia sono usciti articoli per tutto il New York Times, praticamente sono aumentati di nuovo a dismisura gli avvistamenti di UFO. Cosa che noi abbiamo provato a spiegarci così, si guardava di più il cielo, perché nel momento in cui sei in una situazione di angoscia, di costrizione, nella storia delle civiltà umane il primo atto liberatorio o che prelude a un guardare altrove, una liberazione, è guardare il cielo, è sempre stato un atto liberatorio. C'è questo opuscolo, Perché non vediamo più le stelle, di Wolf Bukowski, uscito pochi mesi fa, che inizia proprio con quello, l'invito a tornare a guardare il cielo, perché guardare il cielo è l'inizio di ogni liberazione. In tutta la storia della nostra specie si è sempre guardato il cielo per ampliare, no, il proprio spazio d'azione, i propri orizzonti, le proprie aspettative, i propri sogni, in una situazione appunto di paura, di massa, di costrizione dei propri movimenti, si è guardato di più il cielo. Il cielo inoltre era molto più sgombro del solito, perché erano, per via che non c'erano più gli aerei, quando uno vedeva una luce in movimento diceva non può essere un aereo, gli aerei non stanno volando, in realtà volavano meno, ma volavano, e i voli militari c'erano, ad esempio, e poi ci sono tante altre luci in cielo mobili, perché molti non lo sanno e pensano che ci siano 3 o 4 satelliti artificiali in cielo, in realtà ce ne sono migliaia e il loro numero continua ad aumentare, no? Perché ci sono tutti i satelliti telefonici, ci sono quelli meteorologici, ci sono quelli televisivi, ci sono tantissimi, quelli militari, e quindi molto spesso le luci che vedi muoversi sono satelliti, però molte persone non lo sanno. La cosa interessante però non è smontare, ma è pensare perché le persone in certi momenti pensano di vedere un UFO, un oggetto narrativo non identificato, narrativo, e adesso poi arrivo, sì, arrivo, perché volevo poi dire questo, un oggetto narrativo non identificato è quello che noi cerchiamo di costruire ogni volta, no? E l'impulso è lo stesso dell'oggetto volante non identificato, no? A noi interessa che sia non identificato, non interessa tanto andare subito a spiegarlo, a dire in realtà quello lì è Venere, in realtà quello lì è Giove, in realtà quello lì è un satellite. Da allora c'è stato un boom, tanto che al congresso degli Stati Uniti c'è stato più interrogazioni su questi avvistamenti, il Pentagono ha consegnato al congresso un rapporto, ha detto effettivamente ci sono ancora dei fenomeni inspiegati, lo stesso Pentagono. E vengo alla Sardegna. A partire dall'estate scorsa, soprattutto, ma con un picco nei primi mesi di quest'anno, in Sardegna, soprattutto qui in Sardegna meridionale, ci sono state decine e decine di avvistamenti che vengono poi catalogati dagli ufologi, che ci sono anche in Sardegna. Il CISU, il Centro Italiano di Studi Ufologici, ha anche delle articolazioni in Sardegna che catalogano, cercano di capire questi avvistamenti. Io suppongo si trattasse quasi sempre di velivoli militari, anche viste le zone Decimo Mannu. Il fatto che le persone vedano queste luci e le trovino misteriose e si chiedano cosa possano essere e contattino gli ufologi è un fenomeno interessante, ed è lo stesso che succedeva negli anni 70. Quindi noi usciamo, per via di tutte le vicissitudini di scrittura di questo libro, usciamo in un momento in cui andiamo a intercettare un grande ritorno degli UFO come fenomeno. Allora, veniamo un po' alla struttura del libro. Il libro è strutturato un po' come, perché poi hai fatto anche riferimento alla musica, come una sinfonia, no? Con un preludio e 4 movimenti che effettivamente si sviluppano proprio con un brio finale, no? Quindi esattamente come tante parte molto largo per poi arrivare a un brio finale. E abbiamo, a Wuminguno gli ho fatto i complimenti, li faccio anche agli altri che hanno partecipato al romanzo, quindi al 2 e al 4, per la costruzione dei personaggi, perché i personaggi sono veramente costruiti benissimo, che, lo dicevo poco tempo fa, riesce a visualizzare e a evocarli e a reificarli davanti a te. Uno dei personaggi che a me è piaciuto di più è Martin Zanca. Martin Zanca, l'antropologa Milena Craveri, e poi abbiamo Cravero. E poi, ragione. E poi abbiamo Jimmy. Ecco, dacci un pochino un identikit di questi personaggi, sì, che sono i principali personaggi, e quali sono i luoghi dove è ambientato UFO 78. Sì. Allora, qua la sfida è quella di non rovinare niente, quindi infatti, cerco di... Sì. Il romanzo si svolge non solo per tutto il 1978, ma anche oggi, perché sì, ci sono più piani temporali. Gli stessi personaggi di cui noi raccontiamo le vicissitudini del 78, alcuni di loro sono intervistati oggi. Esatto. Il narratore li intervista oggi, il narratore è un personaggio vero e proprio, anche la voce narrante, sta facendo un'inchiesta su cose accadute nel 78 e quindi, esatto, va a recuperare oggi i protagonisti di questa storia che sono ancora in vita, sì, li intervista estensivamente e ogni tanto ci sono, certo, i virgolettati di quello che loro raccontano oggi. Il romanzo arriva fino al 2022. Esatto, con un preludio nel 76. Il preludio nel 76, che è questo caso, questa scomparsa di due scout durante un campo scout in Lunigiana, sì, alle pendici di un monte che si chiama Quarzerone, in provincia di Massa e Carrara. Nell'agosto del 76 scompaiono nel preludio questi due fidanzati. Sì, due fidanzatini, Jacopo e Margherita, scompaiono. E poi si passa al 78, esatto, questo è il preludio. Poi c'è il primo movimento. Il primo movimento inizia nel marzo del 78. Inizia nel marzo del poco prima del sequestro Moro. Sì, sì, si sa, è notorio che Moro viene sequestrato il 16 marzo. La nostra narrazione comincia, quella impresa diretta, comincia due settimane prima. Esatto. Comincia due settimane prima. Però in realtà il libro arriva fino ad oggi. Cioè si parla anche appunto della pandemia. Certo, ci sono riferimenti a tante cose successe dopo, dagli anni 80, 90, 0 fino a oggi, perché è costruito come un'inchiesta. Se uno non sapesse nulla di questi personaggi dell'Italia del 78, potrebbe apparire come un reportage narrativo, un'inchiesta tra lo storico e il giornalistico, perché va a ripescare personaggi. Sì, che in qualche modo segue un po' il vostro filo rosso, che è quello di far vedere appunto le suture, no? Mostrare, sì, le suture della, sì, costruzione romana. Spiegaci bene che cos'è questo mostrare le suture. È una metafora che noi usiamo per dire che noi scriviamo dei libri in cui mostriamo anche gli attrezzi del mestiere, sono libri che facciano anche vedere come vengono scritti, che tematizzino il loro stesso essere scritti dentro la narrazione. Cosa che a volte facciamo in una forma proprio diretta, come l'anno scorso ho presentato qui la Q di Complotto, esatto, quello è proprio, c'è proprio la storia anche di come il libro, esatto, viene scritto. E qui invece facciamo in una forma sublimata, cioè è il romanzo costruito come se fosse un oggetto narrativo non identificato. E quindi c'è questo narratore che va a recuperare i personaggi, l'intervista, fa delle supposizioni, mette a confronto. Non può andare a intervistare Martin Zanca perché Martin Zanca sarebbe troppo vecchio e quindi ne intervista il figlio, che comunque è un personaggio molto importante nel romanzo. Allora, Martin Zanca è uno scrittore, per scrivere di lui noi ci siamo ispirati appunto a Peter Colosimo, ed è stata una delle prime cose che ponemmo come premessa in quel lontano 2006. Per permettere di visualizzarlo bene abbiamo detto che è il sosia di François Truffaut, in particolare di François Truffaut in Incontri ravvicinati al terzo tipo, dove interpreta l'ufologo francese Claude, esatto, Lacombe. Quando esce il film tutti dicono: ma cazzo, ma somiglia Zanca a quello lì, no? E quindi vedono Zanca, ma è il sosia di Truffaut, eccetera. Quindi uno può visualizzarselo molto bene. Zanca ha più di 50 anni, è reduce da grandissimi successi editoriali, bestseller, però è in crisi perché comincia a non sopportare più il filone che sente di avere spremuto fino all'ultima goccia. Ma il suo editore, che si chiama Paolo Pepe, in arte Pablo Pepper, anche quello è un personaggio molto importante, gli chiede di continuare a sfruttarlo. E allora lui, anche perché ha dei debiti per via della tossicodipendenza da eroina del figlio, siccome ha dei debiti, cerca di scrivere un ultimo libro sulla tematica degli antichi astronauti, che però non gli viene. Quindi noi lo becchiamo in crisi, nauseato da questo filone che lui sta esplorando. Invece Milena Cravero è una giovane antropologa, è una giovane assistente di cattedra di antropologia all'Università di Torino, che sta facendo una ricerca antropologica sugli ufologi, sugli appassionati di dischi volanti, su quelli che vanno appunto a intervistare i testimoni di avvistamenti. Sono già diversi mesi che lavora a questa tesi e deve andare assieme a questi ufologi a un convegno a Roma. Un convegno a Roma coordinato da Martin Zanca, ed è lì che si incrociano le due vie. E i primi capitoli sono tutti di aspettativa per questo importantissimo, uno dei convegni più importanti mai fatti. Dove poi tra l'altro arriverà un personaggio importante per gli ufologi come ospite speciale. Sì, perché è ispirato al più importante ufologo degli anni 70, Hynek, il nostro si chiama Hynek. Queste vicende vanno a convergere con quelle di una comune fricchettona in Lunigiana, alle pendici del Monte Quarzerone, dove due anni prima sono scomparsi due scout. C'è questa comune che si chiama Tanur, fondata da una filosofa guru che si chiama Orsola Galbiati. In questa comunità il figlio di Zanca, Vincenzo, è ospite da 6 mesi ed è grazie a questa comunità che ha smesso di farsi di eroina. I primi scenari che ci troviamo di fronte sono Torino. A Torino, tra l'altro, esattamente in quelle settimane è in corso il processo al nucleo storico delle Brigate Rosse, e questo condiziona pesantemente la vita della città, che è sottoposta a un'intensa militarizzazione. Ci sono presidi militari in ogni vie, posti di blocco dappertutto, camionette, blindati. La città è molto cupa nell'inverno, nel tardo inverno del 78. Torino, Roma, dove si sta preparando questo convegno, e siamo a marzo del 78, e la Lunigiana, dove c'è il mistero che ancora non sono stati ritrovati questi due scout, e c'è questa comune fricchettona che si chiama Tanur, in cui si trova Vincenzo Zanchini, il figlio di Martin Zanca. Poi mi ha detto Jimmy Fruzzetti è un personaggio apparentemente minore perché entra in scena più tardi degli altri, in realtà molto molto importante. Meno ufologo e più ufofilo. Lui si definisce un ufofilo, perché dice gli ufologi vogliono spiegare cosa sono gli UFO, a me di spiegarli non importa niente, a me interessa che cosa dicono loro di me, che cosa vederli dice su di me, invece che cosa ho da dire io su di loro. Non mi interessa il discorso sugli UFO, l'ufologia, mi interessa l'affetto, l'amicizia nei confronti del non identificato, quindi si definisce un ufofilo. Jimmy Fruzzetti ha un negozio di dischi ad Aulla, in Lunigiana, che si chiama Allo Gallo, che è un'eccellenza territoriale e anche nazionale, è un negozio di dischi molto famoso. Nel suo biglietto da visita c'è una frase di Battiato. Battiato è nominato più volte, no? Siccome prima abbiamo sentito Battiato, Aloscia ha ballato Battiato, Battiato è abbastanza presente in questo romanzo, viene evocato più volte in maniera sghembe, oblique. All'epoca è il Battiato ultra sperimentale di dischi come L'Egitto prima delle sabbie. A Jimmy, che è un personaggio molto importante, Giacomo Fruzzetti, detto Jimmy, noi assegniamo il compito di fare vere e proprie dichiarazioni di poetica. Se Zanca se nu, Milena se nu in un altro senso, Jimmy se nu, proprio per la dichiarazione di poetica di questo romanzo. Bene, abbiamo già detto tanto in qualche modo. Sì, non abbiamo spoilerato. Non abbiamo spoilerato niente, non ci avete ancora capito niente, ma è quello che avevamo proposto per questa serata. Abbiamo parlato di un'informazione polarizzata in qualche modo dopo l'omicidio Moro, sì. Diciamo che in qualche modo non si poteva parlare di quello che era successo se non in un determinato modo, sì. Quindi modi diciamo diversi, magari dove si poteva affermare che magari la via della trattativa poteva essere quella che probabilmente avrebbe avuto un altro tipo di risoluzione, erano cose che non si potevano fare, se non essere bollati come amici dei terroristi, eccetera, eccetera. Quando ho presentato Q di complotto, hai parlato del momento pandemico, sembra proprio nello stesso modo. Ecco, come si sono assomigliate in qualche modo le due atmosfere, quelle appunto cupe del 78 e quelle del lockdown o del confinamento? Sì, poi alla pandemia va aggiunta la guerra in Ucraina, che esatto, certo, certamente è stata la stessa polarizzazione, per cui non si poteva prendere una posizione diversa dalle due che venivano imposte, esatto. Quella di essere assolutamente atlantista, la NATO, tutto, oppure eri filo Putin. Esatto. Ecco, o eri d'accordo con tutti i provvedimenti e con tutta la gestione della pandemia, con tutto quello che è stato fatto in blocco, oppure eri Novax. Esatto. E noi non ci riconoscevamo assolutamente in questa, esatto, polarizzazione, abbiamo cercato di uscirne il più possibile per sviluppare un discorso critico. All'epoca era la stessa cosa, questa situazione fu denunciata da Sciascia, da Alberto Moravia, da Camilla Cederna, dicendo lo spazio per una discussione sensata è chiuso. Fin da subito è stata adottata in maniera stolida e blindata una prospettiva unanimista su questa situazione. E Camilla Cederna, in un convegno, anche Giorgio Bocca denunciò questa cosa, in un convegno fatto l'anno dopo sullo stato della stampa italiana, un anno dopo il caso Moro, Camilla Cederne disse: guardate i giornali di quei 55 giorni, sembrano tutti scritti da una mano sola, non c'è stata nessuna diversità di approcci, confronto, di posizioni, perché fin da subito è calata come una pietra tombale questa cosa, la linea da adottare è questa qui e basta, e tutti gli altri erano fiancheggiatori dei terroristi irresponsabili, nonostante si trattasse di nomi come appunto Giorgio Bocca, Moravia, Sciascia, Camilla Cederna. A proposito di Camilla Cederna, ci siamo dimenticati di dire che quell'anno dà le dimissioni il presidente Leone, esatto, e su questo ha avuto un certo effetto anche un libro di Camilla Cederna che si chiamava Giovanni Leone, la carriera di un presidente, uscito per Feltrinelli, un best seller dell'epoca, e dopo Leone viene eletto, viene mandato al Quirinale Sandro Pertini. E tra l'altro il 78 ritorna anche in tante, soprattutto il caso Moro, nonostante non sia un anno di anniversari eccetera eccetera, è ritornato anche negli ultimi tempi, ad esempio con il film di Bellocchio, con il lavoro di Esterno Notte, libro di Pomella, Dio disarmato, sì, che è uscito sempre per Einaudi, quindi c'è una sorta di revival. Dicevamo anche, si sta parlando anche molto di, su Sky, ecco, avevo guardato proprio recentemente, c'è un documentario molto bello, appunto si chiama Roma Mano Armata, sulla colonna romana delle BR, fatto molto bene, eccetera. Quindi è un anno dove effettivamente c'è un po' un revival di Moro e degli UFO, parallelamente. Esatto, no? il binomio si ripropone assieme ed è molto singolare, siamo molto affascinati da questa cosa, per cui nel momento in cui fuori da qualunque anniversario numerico, cifra tonda, sensibilità ritornano a convergere, a interrogarsi su quei giorni del caso Moro in maniera critica, anche come fa Bellocchio, Esterno Notte spara a palle incatenate contro il fronte del rigore, contro la DC e il PC, come gestirono questa cosa, e però fa anche vedere prospettive oblique strane, perché è un film, è una serie TV multifocale, ti fa vedere in ogni puntata le stesse cose da altre angolature, quindi non è diacronica, è sincronica, non ti fa vedere una vicenda che prosegue orizzontalmente, ma ti fa vedere la stessa vicenda ogni puntata da un altro punto di vista. Per me è vertiginosa la puntata con protagonista Cossiga, io non so quanti hanno già visto la serie qui, ma veramente la puntata con Cossiga è incredibile, sembra il Riccardo III di Carmelo Bene, grandissimo, tra l'altro Gifuni nella... Gifuni a fare Moro, vabbè, posseduto da Moro, praticamente, esatto, posseduto da Moro, e allo stesso tempo ritorna agli UFO, cioè ritorna agli UFO e il caso Moro, come se ci fosse una sorta di sinapsi che li tiene collegati anche a distanza di tutti questi anni, e noi l'origine di questa sinapsi in qualche modo cerchiamo di esplorarla narrativamente. Senti, Wuming 1 ha progetti che sta portando avanti, che si stanno per concludere, che stanno per vedere una pubblicazione, oppure la costellazione dei lavoratori, degli della Wuming Foundation, su che cosa sta lavorando, su che cosa. Tra l'altro è uscito quest'anno un film di Armin Ferrari proprio sulla Wuming Foundation, quindi sì, che consiglio a tutti di guardare. Adesso non so se sia già disponibile. No, sta girando solo per festival. Sì. E, ecco, sì, quali sono i progetti, ecco, i progetti immediati, ecco, su che cosa, anche soprattutto Wuming 1, di che cosa ti stai occupando? Ecco, allora, chiaramente noi nei prossimi mesi rimarremo molto concentrati su UFO 78, sulla sua promozione, ci metteremo in viaggio, la tournée di presentazione comincerà il 20 ottobre da Bologna, la prossima settimana pubblicheremo sul blog il calendario della prima tranche, torneremo anche in Sardegna, saremo a Marina Café Noir il 16 dicembre e rimarremo in giro un anno per presentare UFO 78. Allo stesso tempo però io sto girando a tappe, a mini tour, la Francia per presentare la Q di complotto, che nel frattempo è uscito in francese col titolo Q comme complot, Q come complotto. Sono stato qualche settimana fa a fare un tour di 4 presentazioni in Francia e tornerò molto probabilmente a fine gennaio a farne almeno altrettante e poi un'altra volta ancora. Per quanto riguarda i miei progetti solisti, io nel 2023 mi sono dato sostanzialmente due compiti principali. Uno, di girare per UFO 78 e poi, vabbè, poi penso che dopo il terzo ritorno in Francia non è che passerò tutto l'anno ad andare avanti e indietro dalla Francia, no? Quindi a un certo punto quello fermerà. Nel 2023 vorrei tornare sul mio progetto solista, che è una sorta di sequel del mio romanzo del 2019, La macchina del vento. Quello era ambientato tra i confinati antifascisti a Ventotene, questo dovrebbe svolgersi durante la guerra partigiana dalle nostre parti, dalle parti di tutte e due, cioè nel Basso Ferrarese, sì, nel Delta del Po. Come Wuming abbiamo già delle idee su prossimi romanzi collettivi, continuando su questa vena qui, però su questo non preferisco non fare anticipazioni, perché l'avete scoperto stasera che questa idea è del 2006, lo scoprirete tra 16 anni, probabilmente che questa sera avevamo già un'idea per un libro collettivo che uscirà tra 16 anni. Ecco, lavoriamo così, noi siamo sempre con varie cose che bollano in pentola. E invece la Wuming Foundation, appunto, come diceva il dottor Belli all'inizio, è un collettivo di collettivi, perché intorno al nostro lavoro sono nati tanti altri collettivi, tanti altri progetti. A ottobre, oltre a UFO 78, uscirà anche La morte, la fanciulla e l'orco rosso, che è il libro del collettivo Nicoletta Burbacchi, che è un collettivo di storici che si è formato sul nostro blog nel 2012 e che smonta falsi storici contro i partigiani e varie leggende d'odio che si sono diffuse a diffamare la resistenza negli ultimi decenni. Per esempio questa fotografia, no? Questa fotografia che ha fatto passare come un esercito, come un plotone di esecuzione dell'esercito titino, che in verità era esattamente il contrario. Sì, sì, no? Cioè, questa è stata un'inchiesta fatta... C'è nel film di Armin Ferrari. C'è anche nel film di Armin Ferrari questa foto che ogni 10 febbraio, ogni giorno del ricordo, per anni è stata riproposta, si vede un plotone d'esecuzione e viene sempre riproposta come un plotone d'esecuzione jugoslavo che sta fucilando degli italiani, ma in realtà quella lì è la foto di un plotone di esecuzione del Regio Esercito italiano che sta fucilando civili jugoslavi, quindi c'è proprio stato un rovesciamento totale. Ma in realtà La morte, la fanciulla e l'orco rosso parla di un altro caso, che è il caso Giuseppina Gersi, una storia che si è diffusa a partire dal 2017 a livello nazionale, di questa bambina che sarebbe stata uccisa, stuprata, uccisa a Savona da partigiani, ma che in realtà, come viene raccontata, è quasi completamente falsa. Il gruppo Nicoletta Burbacchi ha lavorato per 5 anni facendo ricerche negli archivi di Stato della Liguria e di altre zone del paese, facendo sopralluoghi, raffrontando testimonianze e ha praticamente ricostruito i fatti veri, che non c'entrano assolutamente nulla con la vulgata antipartigiana che viene ogni volta riproposta. Quindi insomma la Wuming Foundation, di cui parla anche il documentario di Armin Ferrari, è continuamente questo lavoro collettivo di vari gruppi che si interfacciano tra loro e che spesso produce dei libri o se no produce trekking, progetti. Alpinismo Molotov, per sì, esempio. Sì, Alpinismo Molotov è un altro collettivo che si occupa di montagna, territorio, riscaldamento globale, opposizione a grandi opere inutili. Sono tutti dei gruppi nati dalla discussione sul nostro blog e che quindi si chiamano Wuming Foundation, perché senza Wuming non si sarebbero messi insieme, non avrebbero il profilo che hanno. Poi vabbè, io dirigo una collana per le edizioni Alegre, Quinto Tipo, anche quella è una metafora ufologica in cui ti avvicinate il Quinto Tipo, e abbiamo in ballo diversi libri nei prossimi mesi. Quindi insomma l'officina lavora indefessamente, spesso a lunghissima gittata, come abbiamo l'esempio di UFO 78, c'è spesso appunto delle cose a cui si comincia a lavorare, in realtà affioreranno, vedranno la luce tantissimo tempo dopo. Senti, per la prima volta non abbiamo parlato dei libri degli altri, forse per la prima volta che discutiamo, perché noi di solito quando parliamo e facciamo pubblicità ai libri degli altri e non i nostri. Abbiamo i libri di UOM nel banchetto, esatto, che meritano, esatto, assolutamente. Noi vogliamo bene a UOM. Sono libri, sono anche degli oggetti, degli oggetti curatissimi. Bellissimi. Che io tra l'altro conoscevo già e sono anche venuti a Elba Book Festival. E sono odore di libri, esatto. I libri di UOM hanno l'odore dei libri. Sono libri coraggiosi, libri radicali che spero che abbiano un pubblico sempre più vasto. Io chiedo se ci sono delle domande, perché effettivamente abbiamo... No, intanto guardiamo il cielo ogni tanto guardiamo il cielo, perché siamo in pieno flap. Ad esempio all'inizio, quando noi abbiamo cominciato, esatto, a parlare... Non si poteva vedere. Noi non riusciamo a vedere bene perché abbiamo le luci, sì, però sì. Se voi vi girate, là forse... in fondo non si poteva vedere bene, ma dietro gli alberi è passata la Stazione Spaziale Internazionale. Esatto. Che è andata in questa direzione qui, diciamo, verso nord, no? Il passaggio è durato 6 o 7 minuti, non di più, però un po' c'era ancora un troppa luce, certo. E un po' è là dietro gli alberi, quindi noi da qui non l'abbiamo vista, però è passata, ecco, certo. E spesso la si vede passare, solca il cielo in pochi minuti, ed è solo uno dei tanti satelliti che vedi passare. Esatto. Ci sono delle domande, delle curiosità, anche perché abbiamo in qualche modo tanti spunti, no? Anche semplicemente... Prego. Parlando della copertina, corriamo un po' alla copertina. Beh, ricordiamo, possiamo vedere la Renault che ci conduce direttamente a sequestro e l'uccisione, soprattutto di Moro, e il fatto che vola, quindi UFO. Invece il resto, ecco, questo scenario montuoso, questa catena che si vede, quale significato ha, se è possibile? Sì, allora, beh, quello è il Monte Quarzerone. Quello è il Monte Quarzerone, che è l'ambientazione principale, è un po' il centro gravitazionale di tutte le storie del romanzo, che viene tematizzato proprio a un certo punto. Un personaggio dice: il Quarzerone è una sorta di campo magnetico mitologico, tutte le storie vengono attirate dal Quarzerone e quindi anche tutte le nostre sottotrame vanno a convergere lì. Comincia lì il romanzo, nel preludio, appunto, perché ha questo campo scout alle pendici del monte, poi andrà a convergere lì ogni percorso. La Renault 4 è un UFO, perché in effetti, se uno ci pensa, l'UFO di quell'anno, il vero UFO di quell'anno, è il vero oggetto ancora non identificato, tant'è che a distanza di tanti anni ancora siamo lì che riflettiamo su cosa sono stati quei 55 giorni e ancora non troviamo la quadra. Il vero oggetto non identificato di quell'anno rimane in fondo la Renault 4 Amaranto. La Renault 4 Amaranto attiva anche tutta una serie di messaggi, il fatto che fu lasciata esattamente in via Caetani, che era a metà strada tra la sede del PC e la sede della DC, eccetera. Comunque c'è tutta una semiosi della Renault 4. Andrea Alberti è un nostro amico che io conosco dai tempi della Pantera, di quando occupammo l'università assieme nel 90. Nel 94 Andrea Alberti realizzò il volto di Luther Blissett, quel personaggio tutto azzimato con la cravatta, con le nuvole sullo sfondo, quell'icona che compare quando cerchi Luther Blissett in rete, l'ha fatta Andrea facendo morphing di quattro foto di miei antenati. Io gli avevo portato delle foto di famiglia degli anni 30, tre miei prozii e una prozia, e lui fece un morphing, cioè le ibridò quelle quattro facce e venne fuori Luther Blissett. Dopodiché negli anni ha collaborato con noi tante volte, ha fatto la copertina di Manituana, ha fatto la copertina della raccolta di racconti Anna tra l'arancia meccanica, ha fatto la copertina dell'Armata dei sonnambuli con la maschera di Scaramouche, ha fatto la copertina dell'edizione speciale di Cooper il ventennale, che è la più radicale che abbia fatto, è l'unico libro nella storia dell'Inaudi che sia uscito senza il nome dell'editore in copertina, non c'era scritto Inaudi da nessuna parte, e senza il nome dell'autore, non c'era scritto nemmeno Luther Blissett, c'era solo questa Q fatta di tantissime Q che andavano a comporla e a saturare tutto lo spazio compositivo. Era un'operazione veramente molto azzardata, ma che poi è piaciuta anche all'Einaudi ed effettivamente ha creato un gran bel oggetto. Ha fatto anche la copertina della Macchina del Vento, del mio romanzo solista, e quando gli abbiamo chiesto di lavorare su, gli abbiamo mandato una delle stesure intermedie del romanzo perché la leggesse e trovasse un concept, è venuto fuori con questa idea della R4 volante come vero UFO di quell'anno, che si staglia su questa montagna che è al crepuscolo, perché questo potrebbe essere un'alba, potrebbe essere un tramonto, è un crepuscolo, no? Il 78 è un crepuscolo nella doppia accezione, in italiano crepuscolo è sia l'alba sia il tramonto, ecco perché è un anno, come si diceva prima, cerniera, termina una fase e ne inizia un'altra. In fondo è il vero ultimo anno degli anni 70, inizia gli anni 80, dopo, no? già dopo il 79 è già un'altra cosa, e c'è questa stagione di mezzo teorizzata da Tommaso De Lorenzi e Mauro Favale nel loro libro La stagione, che dicono gli anni 70 finiscono nel 78, poi c'è un periodo intermedio che va dal 79 alla vittoria dei mondiali di calcio dell'82, e con la vittoria dei mondiali di calcio dell'82 cominciano gli anni 80 veri e propri. È una periodizzazione molto intrigante e molto interessante, e quindi questo crepuscolo è anche quella cosa lì. Serone assomiglia anche un po' al monte del film di Spielberg, no? Ecco, che anche quello è esatto, la Torre del Diavolo. La Torre del Diavolo, anche nel film di Spielberg, e ci siamo ispirati a quello, c'è una montagna che attira l'immaginazione di tutti, tanto che compare in sogno, viene allucinata da tutti i personaggi che sentono l'impulso ad andare lì. Ed è questa Devil's Tower, appunto, l'attore del diavolo, che è centrale e lì va a culminare il film. Beh, abbiamo anche, quindi in Italia abbiamo il Querzerone, quindi se qualcuno vuole andarlo a visitare, lo deve trovare, non è facile trovare il Querzerone. Abbiamo anche altre domande. Dottor Cauli. Io avevo due curiosità. La prima è relativa al fatto che ho notato che sia UFO 78, ma anche Prolet Cult, senza svelare nulla appunto di quest'ultimo, sono comunque fortemente contaminati dall'immaginario fantascientifico. Quindi insomma volevo sapere come mai avete scelto tra le varie paraletterature, come si diceva prima, proprio quella che in Italia insomma è la più bistrattata e certamente la meno insomma, apprezzata, se così sì, nonostante dire. L'abbiano poi praticata Calvino, esatto, Primo Levi, esatto. Cioè in realtà hanno scritto racconti e romanzi di fantascienza. E poi la seconda cosa, avendo avuto la fortuna di leggere il romanzo, ho notato una certa consonanza tra il rapimento moro e il rapimento esatto. Quindi non lo so se ci puoi dire qualcosa su questi spettri che si aggirano. A noi piacciono gli spettri che si aggirano. Sì, allora noi nel corso degli anni, a partire però in realtà da molto lontano, abbiamo nel nostro mix, nella nostra miscela poetica, narrativa, abbiamo aumentato sempre di più la dose di fantascienza, però mai scrivendo fantascienza, ma semmai ragionando sulla fantascienza. Anche Prolet, Cult e UFO 78 non sono libri di fantascienza, casomai sono anche, tra le altre cose, libri sulla fantascienza, sul ruolo che ha o può avere la fantascienza nelle nostre vite, nel nostro immaginario. E infatti i personaggi di UFO 78 ragionano di fantascienza, anche parlano di romanzi di fantascienza, tematizzano e cercano di far leva su cose che hanno letto i libri di fantascienza per comprendere quello che sta succedendo. Però in realtà già l'armata dei sonnambuli era, insomma, c'era dello steampunk, come viene chiamata la fantascienza ambientata nel passato, no? Nel mio New Thing c'erano elementi legati all'immaginario fantascientifico. Nella Macchina del Vento è centrale la lettura da parte di svariati confinati della macchina del tempo di Wells. Addirittura io ho fatto questa operazione, che non mi ha ancora rimproverato nessuno, di far recensire La Macchina del Tempo di Wells da Sandro Pertini, che alla mensa dei confinati socialisti dà la sua opinione sul libro, che peraltro non ha letto, si è solo fatto raccontare, e fa una sorta di analisi socialista, no, della trama della Macchina del Tempo di Wells. Sono personaggi che parlano di fantascienza, più che essere libri di fantascienza, sono dei personaggi che parlano di fantascienza. La questione dei rapimenti, sì, il fatto che si sia parlato ossessivamente di un sequestro per 2 mesi e che quasi tutta l'attenzione ufficiale fosse rivolta a questo sequestro, alle ripercussioni, alle conseguenze di questo sequestro, e che tutti i telegiornali tutti i giorni aprissero su questo sequestro, e che tipo le prime 10 pagine di tutti i giornali fossero dedicate, anche spesso montando la panna, perché c'erano giorni in cui non c'era nulla di nuovo da dire, però fossero in qualche modo legati a questo rapimento, secondo noi ha un'influenza nel fatto che ad un certo punto un sacco di italiani dicano di essere stati rapiti dagli alieni. C'è questa centralità del rapimento nell'immaginario che in un certo modo subisce una torsione e entra nelle visioni, nelle allucinazioni delle persone. Va ricordato che oltre al sequestro Moro, quelli sono anni di rapimenti, di sequestri a scopo di ricatto, è il decennio dei rapimenti. È uno dei reati più clamorosi, più consumati, che più fa parlare di sé. Ci sono i rapimenti della banda di Vallanzasca, ci sono i rapimenti dell'anonima sarda, però quello Moro è chiaramente quello, è il non plus ultra del rapimento, è il rapimento per eccellenza. E il fatto che proprio nel 78, poco tempo dopo il sequestro Moro, venga fuori prepotentemente questa narrazione dei rapiti dagli alieni, probabilmente è collegata. È molto difficile che non ci sia una connessione a livello di immaginario. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questa serata, anche di questa giornata della Fiera del Libro di Iglesias. L'11 ottobre uscirà UFO 78, come recita il New Yorker, scrivono come scriverebbe Dan Brown in acido. Ha scritto di noi questo New Yorker. Quindi, anche perché c'è tutta anche una componente lisergica di cui non vi parleremo adesso. È un romanzo anche molto psichedelico. È un libro di 500 pagine che vi posso assicurare passano alla velocità della luce. Come tutti i libri dei Wu Ming, lasciandoci effettivamente incantati e disincantati allo stesso tempo. Quindi questa è la grandezza dei Wu Ming. Ringrazio tutti, ringrazio Wu Ming 1, ringrazio la Fiera del Libro di Iglesias. Grazie. Ed ecco, appare come un'uffa la dottoressa Carta, che si unisce ai ringraziamenti per questa straordinaria anteprima di cui siamo veramente onorati e orgogliosi. Non vediamo l'ora di avere l'oggetto libro tra le mani, e poi Roberto dovrei tornare per riparlarcene, certo, per firmarci le copie, che insomma, certo, a questo punto avremmo già consumato il letto. Potremmo fare delle cambiali adesso con la firma. Esatto, dopo un impegno valere di acquisto, sarebbe una buona idea. Davvero grazie Marco, tra l'altro Elba Book Festival, Rete PIM, insomma c'è tutta una rete di un intreccio, intersezioni. Poi abbiamo ormai nelle orecchie questo accentino vostro, questo essere tra ferraresi. Abbiamo tra l'altro abbiamo una componente ferrarese ampissima qua in sala adesso, insomma, quindi è una cosa meravigliosa. UFO 78 dall'11 ottobre, vi raccomando. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.